English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera affrontiamo un inglese particolarmente complicato. Allora, vi dico subito che si tratta di un'intervista telefonica, quindi anche il fatto che sia al telefono magari non ci aiuta nella comprensione, ma soprattutto bisogna stare molto attenti a questa pronuncia tipicamente inglese. Stiamo parlando della conversazione che sentiremo tra poco con il regista e sceneggiatore inglese, appunto, Michael Winterbottom, nato a Blackburn, quindi è britannicissimo come il suo accento, ma il suo ultimo film, che è in sala proprio in questi giorni, si intitola Genova ed è ambientato proprio a Genova. Sentiamo Michael Winterbottom che ci ha spiegato come mai ha scelto la città ligure. When you're with films, it's not in the case of this film, it wasn't that we had the story and it was just where shall we film it. The starting point was actually going to Genova and seeing Genova and being interested in the idea of maybe making a film there, and then really it was over like a year or 2 years. I went back there 2 or 3 times and the idea kind of gradually came for the film. So it wasn't that we picked Genova as the sort of city that we would make this film in, but more that gradually the idea for the film came out of visiting Genova. Allora, chissà se chi non è abituato a sentire questo accento così British è riuscito a capire quello che ci ha spiegato Michael Winterbottom. Perché ha scelto Genova? Beh, innanzitutto ha questo modo di parlare, no? Dove si usano, hanno tutte queste paroline che mettono in mezzo, si incespica un po', forse non è un parlatore. Diamogli tutte le scusanti possibili. Però, insomma, comincia con when you, puntini puntini, e poi dice well, in the case of this film, beh, nel caso di questo film. E poi qui comincia a spiegarci finalmente. It wasn't that we had the story. Cioè, il punto non è che avevamo una storia and then it's just. E qui è un'espressione tipica, la usiamo anche noi parlando. E poi uno dice, poi letteralmente, e poi semplicemente uno si chiede, tra virgolette, where should we film it? Dove andiamo a girarla? No, non è andata così. Perché the starting point, il punto di partenza, è stato invece... Sì, è stato tutto un po' casuale. Go to Genova, see Genova, e anche come dice Genova, no? Abbastanza divertente. E poi be interested in the idea of maybe making a film there. Quindi prima ci sono andato, poi ci spiegherà che ci è andato praticamente per caso, ci è capitato per caso, l'ha guardata, l'ha vista bene, e poi to be interested in, sappiamo essere interessati, noi diciamo essere interessati a, gli inglesi dicono essere interessati in, nell'idea di forse farci un film. It wasn't that we picked as a solo city. Che cosa significa? Sì, quindi a volte appunto tutto sommato ce le chiediamo, no? Anche noi, ma perché girano un film in un certo posto? Ecco, non è andata che it wasn't that we picked, to pick vuol dire scegliere, Genova as a solo city, cioè quella era la nostra unica scelta, era la città protagonista. No. The idea for the film came out of, quindi venne fuori da, to come out of vuol dire proprio qualcosa che risulta da un processo, quindi un phrasal verb, e quindi came out of, naturalmente quando c'è la particella poi il verbo va messo al gerundio, quindi came out of visiting Genova, dal fatto di aver visitato per turismo. Visit si usa in generale quasi sempre per turismo, appunto la città. A questo punto siamo curiosi, vogliamo sapere, ma Michael Winterbottom, quando è stato la prima volta a Genova? I think it was like three years before we made the film, so maybe about four or five years ago now. And really, it was by chance. I was just traveling through Italy and was going to Genova to fly back to England. And so the first time really it was only a few hours in the city. But, you know, the combination of like the big kind of, you know, sort of modern city, the port and the mixture of people get around the port and the atmosphere that the port often has, the old town with the labyrinth in our streets, and there's something about the place that just, you know, struck me as like it would be interesting to come back. And then, as I say, then visiting it again, and the visit again with my daughter's son, gradually the idea of a story of a kind of of a family, a father and two girls, kind of going there to try and start a new life and being lost there. Gradually that idea came out really of a series of visits to Genova. Ecco, non c'è stato una volta sola, lui l'aveva detto prima, I went back there 2 or 3 times, ci sono tornato 2 o 3 volte, effettivamente lui ha fatto una serie di viaggi a Genova. Come è stato? Quando è stato? Quindi la prima volta, 3 years before we made the film, quindi 3 anni prima di iniziare a fare il film, e quindi considerando che i film naturalmente sono processi come fare un'automobile, è un processo molto lungo, viene fatto, poi viene montato, eccetera, eccetera. Quindi questo significa, lui c'è stato 3 anni prima di fare il film, quindi 4 or 5 years ago now. Quindi è come se adesso, questo vuol dire 4 o 5 anni fa. Stava andando a Genova, in realtà, la prima volta per caso, una tappa intermedia in un viaggio. Sì, qui dice by chance, e questo è uno dei tanti furti che gli inglesi hanno fatto alla lingua francese. Chance, naturalmente, come bonne chance in francese, buona fortuna, quindi qui è per caso. I was traveling through Italy, cioè stavo viaggiando per l'Italia. Quanti inglesi incontriamo che fanno questi viaggi, questi grand tour dell'Italia? E I was going to Genova to fly back to England, quindi era semplicemente che aveva trovato un volo da Genova anziché magari da Milano, da Torino, da Roma, e quindi stava andando lì per andare all'aeroporto di Genova. Tra l'altro è stato colpito dall'atmosfera di Genova, che magari non è esattamente nell'immaginario degli inglesi, invece il fascino di Genova l'ha colpito. Beh, Genova è, insomma, anche secondo me è una città splendida. Questa, lui dice, ha colto bene secondo me questa combination, the big modern city, quando uno arriva vede il porto, vede questo grande sviluppo urbano vicino all'acqua, e poi però the atmosphere of the port, the old port, quella atmosphere that a port often has, lo sappiamo un po' tutti, no? Chi ha frequentato le città di mare, si dice che le città di mare in qualche modo si assomigliano un po' tutte proprio per questo, perché c'è un'atmosfera particolare that the port often has, che i porti spesso hanno. La storia di Genova è la storia di un professore che decide di far ripartire la sua vita dopo un grave incidente proprio nella città ligure. Tra l'altro l'interprete Colin Firth, che singolarmente anche nel film di Tom Ford interpreta il ruolo di un professore che deve far ripartire la sua vita dopo un lutto, qui però tutto riparte proprio da Genova, e gli è venuto appunto, la storia gli è venuta in mente da lì. Sì, perché poi lui ha detto, lui Winterbottom dice, I visiting again and again with my daughters, quindi sono andato ancora a Genova e ancora con le mie figlie. Guarda caso, io ho 2 figlie e la storia è quella di un father with 2 girls, quindi c'è questo ulteriore parallelo. E che cosa fa questo father with 2 girls? Non lui, ma il protagonista del film, è una persona che trying to start a new life and being lost there. Questa è un'immagine molto bella, no? Cercare, trying to start a new life, quindi cercare di cominciare una nuova vita e perdersi un po' in un luogo che appunto è un luogo nuovo, e quindi facilita sicuramente lo smarrimento. Quindi un film drammatico, ma noi sappiamo che Michael Winterbottom ha girato dei film anche molto diversi l'uno dall'altro, perché gli ultimi sono stati Road to Guantanamo e poi A Mighty Heart, che è quel film dedicato alla figura di Marianne Pearl, la vedova del giornalista del Wall Street Journal ucciso in Pakistan. Insomma, tutti film completamente diversi l'uno dall'altro, ma come mai questa produzione così eclettica? Michael Winterbottom. Own specific thing, and from my point of view as a director, I'm just looking for a story that's interesting. You know, so most of the films that I make are films which, you know, begins an idea that we're developing. You know, and so yeah, as with Genova, you start with one little thing. So in the case of Genova, it's like visiting Genova, and then gradually, you start to think of an idea for a film, and the story develops. So the final kind of version of the story of Genova came out of like maybe a year or 2 years. Like first of all, just visiting the place, and then, you know. And say, like, thinking about ideas about, you know, a father and 2 girls, and I have 2 girls myself, so a little bit that came a little bit of that, and then working with Lawrence Cary, the writer. So the film's kind of gradually developed, you know, and in the end, the kind of only the important thing is, are they interesting? Does it interest me? From my point of view, does this interest me enough to think about the idea of making it? Because once you decide, yes, this is the film I'm going to make, you know that you've got a lot of time trying to raise the money, you've got a lot of time making the film, a lot of time talking about it afterwards. So the whole process takes 2 or 3 years, at least. Devo dire che se anch'io facessi il regista farei come lui, ogni volta mi farei attrarre da qualcosa di diverso, perché lui dice ogni film fa storia a sé. Ecco, questa è una buona traduzione, in inglese si dice each film is its own specific thing, quindi ogni film è la sua, è lui, è se stesso, è una cosa a sé stante, in italiano appunto fa storia a sé. Ancora qui torna sul fatto che lì tutto è nato da questa visita, e lì è nata una storia improvvisamente. Perché c'è my point of view di un director è che io sono sempre alla ricerca. I'm looking for a story that's interesting to be told. Quindi io sono alla ricerca, to look for, cercare una storia che mi interessi, ma che sia interessante da raccontare, perché io come regista mi vedo come ovviamente un raccontatore di storie. E quindi, torniamo a quello che diceva prima, l'idea è poi cresciuta fino a meritarsi di essere girata. Anche qui ritorna sul fatto che c'era con le due, aveva le due figlie, così come il protagonista della storia, che appare quasi come un'illuminazione quando lui arriva a Genova, però poi deve svilupparsi. Quindi I have two girls myself, quindi io stesso ho due ragazze, ritorna a questo parallelo, quindi come il protagonista, non si sa se è nato prima il protagonista o viceversa, e quindi kind of, questo kind, quante volte l'abbiamo sentito anche agli americani, quindi in un certo senso, potremmo dire in italiano, kind of gradually developed, si è sviluppata molto gradualmente questa storia, ma il punto di partenza era la città è bella, mi interessa, mi rivedo in questa storia di papà con due bambine, raccontiamo sta storia. Peraltro poi ci vuole tutto il tempo, nel caso di Winterbottom non c'è neanche voluto molto perché questo film uscisse, perché è stato premiato in molti festival ma non riusciva a trovare una distribuzione, così come spesso accade. It takes a long time. Sì, qui ci spiega un attimo, dice the important thing is, per un director è chiedersi veramente does it interest me enough, cioè mi interessa veramente questa storia, perché, e qui dice once, che poi in americano sarebbe once, quindi once you decided, una volta che tu decidi yes, we are making this movie, beh, quello è solo l'inizio, ed è l'inizio di un lunghissimo e faticosissimo percorso. It takes a long time to raise the money, to make the film, to promote it, appunto come dice la Marta, to distribute it, quindi ci vuole tanto tempo, devi essere molto convinto di quella scelta iniziale, se no ti vai a ficcare in un tunnel troppo faticoso che non ha senso. Michael Winterbottom è arrivato alla fine perché il film è riuscito a uscire anche in Italia proprio in questi giorni, Genova, con Colin Firth appunto di Michael Winterbottom. Noi ci dobbiamo salutare qui perché è finito il nostro tempo radiofonico anche per questo sabato sera. Vi rimandiamo all'appuntamento con English 24 cartaceo e su CD in edicola. Ringraziamo Peter Bescapè in regia. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.